Salva Danaio di Deborah Rosciani. Hey, we've got a problem here. What did you do? Nothing, I stirred the tanks. Houston, we have a problem. Houston, we have a problem. Houston, abbiamo un problema. La celebre scena del film Apollo 13 che abbiamo sentito direttamente dalla voce di Tom Hanks. Sembrerà strano, ma ci porta dritti al tema della puntata di oggi, di questo nuovo martedì del lavoro. Buongiorno a tutti da Deborah Rosciani e benvenuti a Salva Danaio. Se abbiamo un problema, è certo, dovendone scegliere uno, è quello della disoccupazione in questo momento nel nostro paese. Purtroppo sempre in crescita in Italia, crescita costante da qualche anno, con il lavoro che non si trova e le aziende costrette a chiudere o a tagliare personale. L'outplacement o ricollocazione professionale è un servizio fornito da alcune società che si incaricano di accompagnare i lavoratori nel percorso di allontanamento dall'azienda e di ricerca di una nuova posizione. Un istituto nato in America negli anni 60 per iniziativa proprio della NASA, per questo abbiamo scelto Apollo 13. In Italia ancora poco diffuso, oggi cerchiamo di saperne di più e soprattutto cercheremo di capire se la riforma Fornero, che abbiamo tanto analizzato in questi appuntamenti con il lavoro, ha voluto spingere questo istituto in che modo e con che risultati. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi in diretta se ci volete chiedere dei chiarimenti su questa procedura o se avete delle curiosità a proposito anche delle iniziative che la vostra azienda ha adottato per chiudere la relazione professionale con voi, se vi ha in qualche maniera aiutato anche a ricollocarvi, a riqualificarvi dal punto di vista professionale. 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi, oppure scriveteci a salvadanaio@radio24.it. Con noi questa mattina Stefano Colli Lanzi, CEO di G Group, agenzia per il lavoro specializzata in iniziative di outplacement. Dottor Colli Lanzi, buongiorno, benvenuto a Salva Danaio. Buongiorno a lei. E tra un po' ci collegheremo anche con l'avvocato Giampiero Falasca, giuslavorista ed esperto per le materie appunto del lavoro per il Sole 24 Ore. Siete stati inseriti in un percorso di outplacement e di ricollocazione aiutati dalla vostra ex azienda? È stata un'esperienza positiva o negativa? Raccontatecela questa mattina, vorremmo naturalmente molto volentieri raccogliere le vostre testimonianze. Prima di cominciare però con tutto questo, naturalmente un'occhiata alla giornata di borsa. E la giornata è ancora una volta negativa, pesa naturalmente quanto sta accadendo nella piccola Cipro. Il caso Cipro ha riacceso le tensioni sui mercati, dalle borse ai titoli di Stato. In base all'accordo con l'Unione Europea da 10 miliardi di euro, il paese mediterraneo imporrà ai propri depositanti una tassa, una tantum, probabilmente differenziata in base all'ammontare dei conti bancari. Questo prelievo forzoso sui conti che ha spaventato tutta la comunità europea, perché è chiaro che è una decisione di Bruxelles che costituisce un precedente nei confronti dei quali molti hanno chiaramente dei timori. Questa mattina il Parlamento cipriota doveva approvare questo provvedimento, recepirlo, non c'è la maggioranza in Parlamento come era nelle attese. Devo dire che però la borsa è partita male, non ha avuto un peggioramento in concomitanza con la decisione del Parlamento appunto di Cipro. Andava male e continua ad andare male nella stessa misura. Parigi perde lo 0,8%, Francoforte meno 0,38%, Londra meno 0,34%, Milano in ribasso dello 0,32%. I migliori titoli di Piazza Affari abbiamo Telecom, che è in crescita di 2,5 punti circa, Ansaldo più 1,74, Salvatore Ferragamo più 1,34, STM più 1,22%, mentre in calo abbiamo Pirelli, Mediobanca e Ubibanca che perdono 1,5 punti circa, la Popolare dell'Emilia Romagna, Eni, Exor e Fiat Industrial in ribasso di 1 punto, sulla Galassia Fiat pesa anche il dato sulle matricolazioni in Europa, che sono scese a febbraio di nuovo del 10,5%, e sono cali a due cifre mese su mese che il mercato automobilistico registra davvero fa molta fatica a riprendersi. Direi che per la borsa è tutto, lo spread fra BTP e Bund, che pure naturalmente osserviamo ossessivamente, è sui 330 punti base. Direi che per la borsa è tutto, noi dobbiamo parlare del tema di questa mattina, appunto outplacement, ricollocarsi quando si perde il posto di lavoro, però prima di questo un ricordo. È stato obiettato che su questo libro bianco abbiamo parlato troppo dell'Europa, qualcuno ha detto addirittura con ossessione. Io rispondo che se siamo stati anche noi autori che abbiamo dato alcuni consigli al governo ossessivi, io di questa accusa sono orgoglioso, ma non tanto per un fatto di europeismo astratto, quanto perché delle novità che provengono dall'esperienza comunitaria, questo Paese ha un disperato bisogno. Ha un disperato bisogno di modernizzazione anche nel campo del lavoro. Perché sappiamo bene come l'ordinamento del lavoro si sia evoluto in questi ultimi anni, soprattutto in ragione di direttive comunitarie che sono state trasposte. Non devo ricordare il contratto a termine, il lavoro a part-time, i permessi parentali e prima ancora tante normative che fanno parte del nostro agire quotidiano di professionisti, fin quando dagli anni 70 la Comunità Europea cominciò a legiferare in materia di licenziamenti collettivi, di trasferimento d'azienda, di tutela del lavoratore in caso di insolvenza del datore di lavoro. Di Europa, dicevo, c'è disperato bisogno. C'è bisogno di modernizzare l'impianto complessivo del nostro ordinamento del lavoro. Quella che avete sentito era la voce di Marco Biagi. Oggi ricorre l'undicesimo anniversario della sua drammatica morte, la morte del giuslavorista assassinato da un commando di terroristi appartenenti alle Nuove Brigate Rosse il 19 marzo del 2002 a Bologna. Ricordiamo Marco Biagi, l'autore del libro bianco del lavoro che portò poi alla emanazione della legge 30 di riorganizzazione dell'ordinamento del lavoro nel nostro paese nel secondo governo Berlusconi. Aveva ricoperto incarichi governativi come consulente, consigliere di diversi ministeri del governo italiano, era anche editorialista del Sole 24 Ore. Ci sembrava quanto mai utile oggi ricordarlo in concomitanza con la nostra trasmissione. In questo estratto che arriva, perdonerete anche il fruscio, è materiale un po' vecchio, ha più di 10 anni di vita, arriva da un convegno a cui Marco Biagi partecipò a Roma il 21 novembre del 2001, un congresso di consulenti del lavoro nel quale appunto portò questo messaggio europeo per quello che riguardava appunto il mercato del lavoro italiano, che necessitava secondo lui di questa trasformazione, di questa evoluzione, di questa modernizzazione. Stefano Colli Lanzi, è ancora attuale? Quanto è attuale? Anzi, lo è senz'altro, non quanto. Quanto e come secondo lei è attuale oggi il messaggio di Marco Biagi? Ma attualissimo, sentiamo la sua mancanza, diciamo, anche per il contributo che ha dato e che poteva dare al mercato del lavoro. Penso che la parola modernizzazione sia una parola attualissima, penso che il nesso con l'Europa sia un fatto attualissimo. Dobbiamo dire che qualche passo è stato fatto da 11 anni fa ad oggi, e quindi in parte la sua eredità è stata anche raccolta. Raccolta e rispettata. Avvocato Giampiero Falasca, giuslavorista, lei l'ha conosciuta, ha partecipato anche a diversi convegni con Marco Biagi, ci può tracciare il suo ricordo? Lei peraltro anche sul suo blog Lavoro e Impresa oggi ha riproposto uno di quelli che ha definito uno degli articoli più belli che Marco Biagi appunto ha scritto durante il suo impegno. Che ricordo ne ha, Falasca? Sì, beh, guardi, è un ricordo incredibile, nel senso che a Marco Biagi è legato il primo convegno in cui io parlai pubblicamente, che era, mi pare, nel gennaio del 2002. Io lavoravo all'epoca con il professor Treu e ricordo. Era giovanissimo lei, Falasca, peraltro, perché lo è adesso, figuriamoci, 10 anni fa, sì, per cui ancora maggior valore, immagino, questa esperienza. Devo dire che il mio intervento fu abbastanza bruttino, però insomma era il primo, quindi voce tremante e così via. Però diciamo arrivò questo professore che io non conoscevo e arrivò ricordo a fine convegno e portò un'energia pazzesca, cioè quello che mi colpì tantissimo e poi mi colpì anche nelle poche volte in cui ho avuto la fortuna di vederlo di persona prima dell'omicidio, era l'energia, la passione, cioè Biagi credeva fermamente nella necessità di riformare il lavoro. Perché insisto su questo aspetto? Gran parte dei giuslavoristi, anche attuali, quale difetto hanno? Che sono, diciamo, mentalmente conservatori, anche senza saperlo, cioè non ci mettono quella passione, non colgono diciamo la drammaticità, l'urgenza dei problemi. Lui aveva questo, cioè che lui sentiva veramente, tanto è vero che io sul blog ho messo questo articolo più bello, era bellissimo il titolo, no? Il dato e tratto, modernizzazione o conservazione, e lui sentiva proprio l'urgenza della necessità di intervenire. Poi è successo quello che è successo e quindi come dice il dottor Collinanzi, qualcosa è stato fatto, ma un pochino poi si è perso quel messaggio, andiamo avanti un po' più, navighiamo a vista, e si è un pochino perso quello slancio di andare a rivedere i problemi nel loro complesso. Immagino che poi più, anche avendo pagato con la vita, anche se qualcun altro avesse magari lo stesso slancio, poi appunto forse prevale anche un po' di timore di certe iniziative. Basti vedere adesso Pietro Ichino e anche quanto sta pagando anche se stesso, appunto, per vivere con la scorta costante, insomma, per portare avanti anche le sue iniziative, no? Comunque io lascerei qua il ricordo di Marco Biagi. Naturalmente non potevamo anche noi non dedicargli un tributo, visto che stiamo facendo questi martedì del lavoro, ci sembrava assolutamente utile e corretto dedicare appunto questo ricordo. Adesso però andiamo al tema di questa mattina, perché peraltro vedo già, pur non avendolo ancora introdotto minimamente, vedo già delle richieste degli ascoltatori che vogliono intervenire perché ci vogliono raccontare la loro testimonianza. Saluto già Costantino da Milano e Giovanni da Roma, chiedo loro un po' di pazienza perché se loro conoscono l'istituto del outplacement, del ricollocamento, quando si perde il lavoro secondo certe modalità, non lo conoscono tutti. Allora sentiamoci subito la nostra scheda. Non è l'azienda che costruisce il mio futuro lavorativo, ma sono io che gestisco la mia carriera. In questo modo, con grande sforzo di semplificazione, si può ridurre a poche parole la filosofia che sta dietro l'outplacement, attività con cui società specializzate agiscono a supporto della ricollocazione di uno o più dipendenti in uscita da un'azienda, con l'obiettivo di favorire l'individuazione di una nuova posizione professionale. Questa pratica risulta molto poco diffusa in Italia e anche la recente riforma del lavoro non sembra averne incentivato l'adozione. Nato negli Stati Uniti alla fine degli anni 60, il servizio di outplacement prevede un'offerta capace di tenere conto dei diversi aspetti connessi alla riqualificazione professionale di una risorsa umana. Il supporto psicologico finalizzato alla rimotivazione, l'accompagnamento all'elaborazione di un nuovo progetto professionale, un percorso di formazione specifico per arrivare a una fase di attivazione in prima persona dell'interessato nella ricerca del nuovo posto di lavoro. Si possono intraprendere anche azioni di outplacement collettivo che hanno una durata predefinita e vengono generalmente gestite con la collaborazione del sindacato, permettendo agli eventuali esuberi di personale di andare verso il mercato, favorendone la ricollocazione. L'idea in entrambi i casi è quella di gestire il rilancio del lavoratore in modo attivo, con una vera e propria operazione di marketing, che passa attraverso un'attenta analisi del mercato e delle potenzialità della risorsa. In un momento come questo, però, porsi con un atteggiamento positivo di fronte a un licenziamento, affrontandolo come se si trattasse di separazione consensuale con l'azienda, non è affatto facile. Infatti è comprensibile. Allora 800 24 00 24 il numero verde per i vostri interventi in diretta, ma subito vorrei un commento del dottor Stefano Collinanzi, CEO di G Group, questa agenzia per lavoro che è specializzata proprio in queste iniziative di outplacement. Mi rendo conto che molti ascoltatori siano un po' disturbati nel continuo sentire questo termine in inglese, cercheremo di tradurlo nella massima misura possibile. Comunque è una sorta di ricollocamento, anche se la traduzione letterale forse non è questa. Però dottor Collinanzi, anzi, noi oggi abbiamo un mercato del lavoro che osserviamo sempre dal punto di vista che riteniamo più preoccupante, che è quello dell'elevatissima disoccupazione giovanile. Però la statistica complessiva è preoccupante per tutte le fasce d'età e tutte le fasce sociali. Secondo lei questo istituto quanto aiuta il mercato del lavoro? Ma aiuta tantissimo. Effettivamente il nome non rende ragione del contenuto. In realtà il cliente delle attività di outplacement è proprio la persona, no? La persona che deve cercare lavoro, quindi le società specializzate in outplacement assistono e si mettono al fianco della persona che cerca lavoro su mandato e finanziate a volte dall'azienda che appunto se ne sta liberando, diciamo, o li sta licenziando, oppure della pubblica amministrazione che invece entra in supporto di queste persone favorendo e cercando di accelerare il loro processo di reinserimento nel mercato del lavoro. Per cui da un certo punto di vista sarebbe più logico parlare di in-placement più che di out-placement. Questo è il vero contenuto dell'attività. Mm-hmm. Cosa significa per un'azienda offrire questo servizio? E le chiedo, sono solamente le aziende grandi che possono permettersi appunto una consulenza di questo tipo nei confronti delle professionalità delle quali purtroppo deve sbarazzarsi in certi casi, aziende solo di grandi dimensioni, oppure anche le piccole e medie imprese hanno la possibilità appunto di avvalersi di una consulenza da parte di società come la sua, appunto come questa? Diciamo che se le aziende si rendessero conto che il reale problema che creano quando purtroppo si devono distaccare da qualche loro persona che lavora con loro, si rendessero conto del problema che creano appunto, che è quello di lasciare la persona senza lavoro, probabilmente sarebbero più sensibili a cercare delle soluzioni utili a risolvere il problema che si crea. Oggi invece la logica è un po' quella di con un sussidio, con alcune mensilità o con qualche accordo risolvere il problema lasciandolo irrisolto. In realtà il costo dell'attività della consulenza è relativamente basso e gli effetti sono estremamente interessanti. Basti pensare che la percezione normale delle persone, abbiamo fatto una ricerca recentemente riguardo all'indice di fiducia, quindi al livello di fiducia che le persone hanno su diversi temi, è stato chiesto loro in quanto tempo pensano di poter trovare lavoro una volta perso. La percezione media è di 14 mesi come tempo medio di ritrovamento di posti di lavoro, mentre l'esperienza della società di outplacement dice che sono circa 7-8 mesi, oggi che si è in crisi, il tempo medio di ricollocazione. Quindi c'è una possibilità di efficacia estremamente interessante. Benissimo, allora poi ci racconterà naturalmente, se vorrà farlo, anche attraverso casi concreti, come funziona effettivamente questa attività di consulenza e come appunto in quali tempi, anche se qualcuno ce ne ha già indicato, effettivamente le persone possono ricollocarsi. Devo già fare la prima pausa, volevo però fare un'osservazione, poi il dottor Colilanzi mi perdonerà, gli permetterò anche di replicare. Diceva, l'azienda non si rende conto a volte quanto costa alla persona che viene lasciata senza lavoro appunto questa nuova situazione. Io credo che invece gli imprenditori italiani lo sappiano molto bene, perché abbiamo delle situazioni anche drammatiche in Italia. Molti imprenditori a volte ci mettono tanti soldi di tasca loro pur di far arrivare il più tardi possibile questo momento della chiusura del rapporto di lavoro. Abbiamo situazioni appunto che abbiamo raccontato tante volte anche da Radio 24, i disperati mai, imprenditori che non volevano mollare perché invece penso che conoscessero benissimo la situazione nella quale si sarebbero poi ritrovati i dipendenti che non avevano più lavoro. Per cui ecco, così volevo solo fare questa osservazione, poi sono sicura che il dottor Colilanzi vorrà ribattere. I servizi di ricollocazione professionale sono nati negli Stati Uniti alla fine degli anni 60. Un esempio dell'applicazione di questo tipo di offerte è la drastica riduzione cui furono sottoposti i dipendenti specializzati della NASA, l'ente spaziale americano, che erano stati impegnati nel progetto Apollo. Si decise di offrire a tutti il servizio di outplacement per consentire loro di riqualificarsi e potersi così ricollocare in altri contesti aziendali. In Italia le attività di supporto alla ricollocazione professionale hanno iniziato a comparire verso la metà degli anni Ottanta. Rispetto agli altri paesi europei, si tratta ancora di un servizio relativamente poco utilizzato, che sta iniziando a diffondersi in questi ultimi anni, nel settore privato, ma anche in quello pubblico. E sentiamo subito l'esperienza di un ascoltatore, poi commenteremo anche questa versione all'italiana dell'outplacement. Giovanni da Roma, buongiorno. Giovanni, buongiorno. Ci racconti sì, tutto. Ecco, sì. Ecco, buongiorno. Io ne ho usufruito nel 2010, tanto lavoravo per una multinazionale, ho sempre lavorato per multinazionale, e in un piano di ristrutturazione internazionale, quindi riduzione dei costi, quindi significa riduzione del personale in ogni filiale a livello internazionale, ho usufruito, quindi sono fuoriuscito dall'azienda e nel pacchetto l'azienda mi offrì l'outplacement. Diciamo che concretamente come si è realizzato per lei? Concretamente, allora c'è un lato positivo e un lato negativo, se vogliamo, perché da un punto di vista proprio personale, i consulenti della società di outplacement fanno, io non sono più ragazzino, oggi 47 anni, quindi nel 2010 ne avevo 44, fanno ripercorrere un po' la carriera professionale cercando, e quindi fin dall'inizio, quindi 20 anni prima, quando normalmente uno non pensa neanche all'inizio della carriera, ti fanno riflettere per passo dopo passo su tutto quella che è stata la tua carriera professionale, cercando di mettere in evidenza quelli che sono i lati positivi e i lati negativi anche della tua carriera professionale, da tutti i punti di vista, quindi sia nei rapporti con i propri collaboratori, sia nei rapporti con le persone che ti hanno coordinato, piuttosto che del lavoro che hai. E nel concreto a lei, Giovanni, a che cosa è servito? Poi che cosa le è successo? Beh, mi è servito, poi chiaramente ti aiutano nel riproporti nel momento in cui devi andare a ricercare lavoro, perché poi la cosa fondamentale dell'outplacement è che non è che loro ti cercano lavoro al posto tuo, ma devi essere tu che ti devi comunque cercare il lavoro, e quindi ti aiutano a riproporti in una maniera più costruttiva nel momento in cui... Anche a sconfiggere un po' quel momento che emotivamente diventa devastante quando non si ha più il lavoro, naturalmente forse serve più un aiuto, di un supporto di carattere psicologico proprio per rimettersi in marcia, no Giovanni? E quindi è chiaro che lì non è che diventa un nuovo sportello per andare sul mercato del lavoro, è proprio un rimettersi in carreggiata con il supporto della vecchia azienda. Grazie mille Giovanni, adesso sentirò anche Costantino, prima Giampiero Falasca. La riforma Fornero, avvocato Falasca, ha portato qualche supporto alle aziende che intendono attivarsi con questa modalità appunto di assistenza ai lavoratori che non sono più suoi lavoratori? Sì, c'è una novità. Diciamo, qualche mese prima della riforma Fornero addirittura era stato presentato un disegno di legge in cui si prevedeva l'obbligo per le aziende di pagare l'outplacement in alcuni casi. Poi non si è arrivati a questa versione forte, ma nella legge Fornero c'è scritto che nel caso del licenziamento cosiddetto economico, cioè quello per giustificato motivo oggettivo, quello insomma quando l'azienda ha un problema di costi o deve cancellare, cambia il modello organizzativo, se le parti raggiungono un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, diciamo, parte dell'accordo può essere anche l'outplacement. Diciamo che a livello sostanziale la novità è molto ridotta, cioè già lo potevano fare prima, però diciamo l'evocazione legislativa del servizio fa pensare appunto è in qualche modo un'indicazione al mercato, come dire, vi ricordo che esiste anche questo strumento. Ecco, ma è un qualcosa, ma è molto timido. Certo, le aziende hanno anche degli incentivi economici ad attivarsi secondo questa modalità? No, e quello è il punto di caduta vero, secondo me. Se io posso dire una cosa, cioè io oggi considero eroico fare l'outplacement in Italia, perché c'è un contesto che è assolutamente contro il dinamismo del mercato, no? Dalla rigidità del mercato, soffocate norme e quant'altro. In più, diciamo, il legislatore non si preoccupa di costruire, di incentivare le aziende e i lavoratori ad andare a usare alcuni strumenti come questo. Quindi c'è qualcosa, le faccio un esempio, ci sono gli incentivi per l'occupazione dei lavoratori over 50 o delle donne, ok? Riformati da legge Fornero, dal 1 gennaio dovevano essere operativi con un decreto, il decreto non è ancora uscito. Quindi ci sono pochi incentivi, non sono attivati, e quei pochi che ci sono comunque non guardano specificamente all'outplacement, ma sono un pochino ancora così destrutturati. Quindi per rispondere alla sua domanda, siamo molto indietro, dobbiamo fare molto. Quindi, pur riconoscendo la validità di uno strumento di questo tipo, diciamo che ancora non abbiamo un supporto organizzativo e legislativo adeguato per poter aiutare le aziende anche ad attivarsi secondo questa procedura e questa opportunità anche per i lavoratori ed ex lavoratori. Stefano Collilanzi, ritorno da lei, per vuole anche se commentare la mia osservazione fatta nella prima parte della trasmissione. Chiedo cosa ne pensa del giudizio del dottor Falasca, ma poi soprattutto da lei vorrei un po' di casi concreti per capire come assistete le aziende aziende, che cosa fate concretamente, che risultati, anche attraverso magari l'esperienza di un'azienda nello specifico, se ce l'ha naturalmente, che così magari con i casi concreti solleviamo ancora di più l'attenzione dei nostri ascoltatori. Sono molto d'accordo con l'avvocato Falasca, perché oggi l'ideale sarebbe quello di avere un sistema che incentiva o che renda obbligatorio l'utilizzo dell'outplacement per le aziende che licenziano, aiutando anche appunto anche le imprese a rendersi conto della maggiore efficacia che può avere partecipare attraverso un supporto alla ricollocazione al disagio del lavoratore, piuttosto che con un sussidio, che normalmente è quello che viene richiesto dalle parti, anche dal sindacato nella negoziazione, eccetera. Quindi si tratta anche di favorire un po' un cambiamento culturale. Culturale, certo. D'altra parte, appunto, il problema reale che si crea, per l'appunto, quando si mette una persona fuori dall'azienda è il problema del ritrovamento del posto di lavoro. E quindi il vero risparmio è il risparmio in termini di tempo, no? E quindi poi di risorse pubbliche e private, nell'accorciare i tempi di ricollocamento. La cosa impressionante, insomma, dei nostri dati, ecco, tenete presente che questo tipo di attività va svolta in termini estremamente specializzati. Lei ha fatto riferimento a G-Group, che giustamente è un'agenzia per il lavoro che si occupa di vari servizi al lavoro, ma questo tipo di servizio viene svolto da una nostra unità specifica che si chiama Intu, che ha 20 anni di esperienza in questo settore, che adotta metodologie specifiche e che solo così riesce ad ottenere poi dei risultati eccellenti. Le nostre statistiche ci dicono ancora oggi che siamo appunto in una situazione in cui chiaramente le opportunità sono in calo e quindi la situazione è obiettivamente difficile, che mediamente sia sui casi dei dirigenti dove si attivano delle iniziative individuali, sia nel caso di figure meno apicali, quindi nel caso di impiegati o di blue collar, dove invece si applicano delle procedure collettive cosiddette, no? Ma il tasso di ricollocazione nell'ambito di 6 o 7 mesi va dall'80 al 90% dei casi presi in carico. E i casi presi in carico non sono tutti scelti da chi poi deve ricollocare, ma sono scelti dall'azienda e soprattutto dalle persone che si affidano a questo servizio. Quindi il livello di risultato ottenuto è estremamente interessante. Certo. Noi cogliamo il fatto che delle posizioni aperte oggi sul mercato del lavoro, solo il 20% sono visibili e l'80% sono invisibili. E questo è il motivo per cui è così importante che ci sia qualcuno che sappia come fare per affiancare la persona ad accelerare il processo di ritrovamento del posto di lavoro. Di ritrovamento anche di visibilità, certo. Di ritrovamento di visibilità nel mercato del lavoro anche, no? Perché no, Sam, ce l'ha qualche caso concreto da raccontarci con l'Ilanzi? Ma di casi concreti noi abbiamo decine, adesso non mi sembra il caso di fare dei nomi, ma appunto adesso mi hanno per esempio un caso recente interessante, è un caso di una grossa azienda farmaceutica per cui abbiamo preso in carico un progetto di 180 persone, informatori scientifici del farmaco, situazione dove c'è calo di domanda strutturale, nel senso che il tipo di professione sta andando un po' in crisi, no? E quindi il problema non è solo quello di cambiare azienda, ma quello in qualche modo di valorizzare il percorso fatto, l'esperienza fatta, eccetera, ma in una logica innovativa, in una logica appunto di nuova situazione. Interessante è che appunto alcuni sono stati indirizzati, per esempio, ad esercitare una professione direttamente nelle farmacie. Altri invece anche che hanno valorizzato magari le capacità di venditori, mi passi il termine, no? Magari mettendosi in un altro settore. Essendo grazie alle recenti liberalizzazioni hanno aumentato il numero delle farmacie stesse, quindi c'è un certo fabbisogno di figure del genere. Dall'altra parte, per alcuni sono stati riorientati a fare l'informatore scientifico del farmaco, ma sull'omeopatia, per cui su prodotti che invece tendono in questo momento a crescere come fa bisogno. Certo. Alcuni invece hanno aperto delle attività in proprio. Alla fine di tutto questo percorso, che non è ancora finito, per cui sono passati 8 mesi di fatto da quando è cominciato, già il 60% delle persone è ricollocato, un 12% è in fase di formazione ma è prossimissimo alla ricollocazione e rimangono da gestire ancora un 28% dei casi. Ecco, ho fatto un esempio anche un po' complesso per dire che di quanto sia importante un'iniziativa proattiva della società di outplacement, appunto, in affiancamento alla persona. E certo. Che, come diceva la persona prima che parlava, non viene sistemata dalla società di outplacement, ma viene appunto aiutata a riattivarsi. Certo. Siamo quasi in chiusura. Io ricordo anche, sempre a proposito di mercato del lavoro, che domani il Sole 24 Ore pubblica uno speciale di 24 pagine per spiegare come applicare le novità della riforma Fornero, proponendo il punto di vista dei direttori del personale e dei professionisti sulle modifiche da introdurre. Dal contratto di apprendistato alla nuova disciplina dei licenziamenti, c'è tutto in questo inserto molto completo. 800 24 00 24 per il tema di oggi: come ricollocarsi sul mercato del lavoro dopo che lo si perde, qual è l'attività garantita di assistenza del servizio di outplacement. Io banalizzo molto i nostri concetti per aiutarli a capire, appunto, i nostri ascoltatori. Rapidissimi, alcune testimonianze. Costantino da Milano, eccoci, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Senta, io ho avuto questa esperienza 19 anni fa e l'avevo chiesta io all'azienda e sapevo che costava il 20% dello stipendio annuale. Tenga presente che io l'ho fatto soprattutto per non dire a mio figlio piccolo e a mia madre anziana che ero disoccupato, quindi io uscivo di casa, non c'era internet, mi presentavo in questa azienda che mi metteva a disposizione segretari e recapiti, però i tentativi di lavoro li ho più che altro sviluppati col mio network, cioè con le mie conoscenze, e poi ho deciso di cambiare totalmente. E quello che diceva uno dei suoi ospiti lo condivido. Secondo me lo scopo principale di queste società di outplacement dovrebbe essere quello di aiutare le persone al limite a cambiare anche tipo di attività e mentalità, certo. E sviluppando magari un'attività nel campo di un loro hobby o di qualcosa. Per esempio, io ho avuto questa esperienza, cioè io lavoravo nell'informatica. Durante l'outplacement ho accettato un contratto a termine, però poi ho visto che le cose non si sarebbero risolte e ho cambiato totalmente e sono diventato tassista. Cioè, quindi è stata un'attività, cioè certo, un completo. Però ha dovuto fare anche un lavoro mentale, immagino, non trascurabile, ecco, per poter passare da un settore. Tenga presente che io ho avuto un aiuto relativo perché ero già avvezzo al cambiamento, sapevo fare e scrivere un curriculum, sapevo insomma l'intervista, eccetera. Lì c'era un aiuto per la persona che magari dopo 30 anni che è nella stessa azienda si sente crollare il mondo addosso, certo, perché rimane a casa. Allora io direi a queste persone, fra l'altro io è un'attività che avrei consigliato a mio figlio che è laureato in economia con specializzazione nel personale, perché secondo me è un business che è interessante per chi lo gestisce, però deve essere sviluppato per aiutare il più possibile anche psicologicamente, infatti, queste persone che si trovano magari a spasso e non sanno più, magari hanno una famiglia, insomma hanno dei problemi eccetera, e magari convincendole a buttarsi anche in qualcosa che non necessariamente è la loro corrisponde magari ai suoi, certo, le sue attitudini nell'immediato. Costantino, la ringrazio per la sua bellissima testimonianza. Vorrei sentire subito anche quella di Sergio da Roma, perché invece sta vivendo un'esperienza completamente favorevole da questo punto di vista. Sergio, buongiorno. Sergio, dov'è finito? Mannaggia, ha perso il lavoro 2 mesi fa, è stato collocato in mobilità, seguito da una società per 6 mesi, molto fruttuosa questa collaborazione, ci voleva raccontare una bella esperienza. Giampiero Falasca, cosa ne pensa della testimonianza di Costantino? Beh, 19 anni fa di cambiamenti probabilmente ce ne sono stati, però probabilmente ancora forse la situazione di Costantino oggi potrebbe essere replicata nella stessa identica maniera? Ma sì, guardi, io diciamo ho una visione ovviamente parziale, no? della vicenda, però io purtroppo in questo periodo faccio moltissime procedure di mobilità per conto di aziende e poi spesso propongo questo servizio di outplacement nei pacchetti che fanno le aziende e poi dopo cerco di informarmi di vedere come va, e i risultati sono buoni, cioè io vedo che comunque avere dei professionisti che aiutano, quindi secondo me bisogna essere molto concreti e pragmatici, andare sulle esperienze, se è una cosa che va provata e se funziona va sicuramente incentivata. Poi è chiaro, insomma, ogni storia è a sé stante, però in Italia il mercato del lavoro è talmente tutto molto destrutturato per cui mancano aiuti, cioè i servizi pubblici per l'impiego che dovrebbero fare questo lavoro non lo fanno, quindi avere degli specialisti. Io vedo che le persone, a me arrivano molti curricula, no? Spesso non sanno scrivere il curriculum, spesso non sanno fare ci ha dato anche una bella idea per un'altra puntata, allora va, facciamo anche questa su come scriverlo. Sì, sì, guardi, gliela consiglio in diretta, perché è un tema assolutamente su cui ci sarebbe da parlare una puntata, non basterebbe. Benissimo. Cosa non va messo nel curriculum? Infatti, non tutti gli orpelli inutili. Ecco, abbiamo recuperato Sergio da Roma. Sergio, rapidissimo, grazie. Che poi vado a conclusione con Colli Lanzi. Sergio. D'accordo, buongiorno, molto, molto rapido. Giusto portare la mia testimonianza riguardo l'outplacement, una società che mi sta seguendo ed è fa parte, diciamo, questo servizio di outplacement del pacchetto di uscita della multinazionale per la quale lavoravo. Devo dire che, pur essendo scettico all'inizio, ero molto scettico sull'effettiva utilità, già dal primo incontro, il primo training che abbiamo sostenuto di gruppo a cui abbiamo partecipato, mi si è aperto un mondo, i miei occhi si è rinfrancato, sono, Sergio, meno male. Spalancati, mi sono rinfrancato, devo dire che aiuta molto a capire esattamente, a fare anche un esercizio di analisi sulle proprie competenze, sulle proprie capacità, che normalmente magari in un curriculum vengono certo, sono riflessioni in maniera un po' certo attiva. E riflessioni che magari uno non fa. Sergio, io vorrei ascoltarla ancora a lungo, ho 2 minuti di tempo, devo necessariamente consegnarli a Stefano Colli Lanzi per concludere la nostra trasmissione che abbiamo supportato con tante testimonianze concrete. Dottor Colli Lanzi, ammettendo di avere a che fare adesso con un'azienda che non ha per nulla idea che esista questa opportunità e magari vive con terrore anche, come dire, la condizione che potrebbe anche essere imminente di dover chiudere qualche comparto, no, di dover lasciare a casa un po' di persone, da dove comincia per attivarsi con questo istituto? Io tra l'altro continuo ancora a chiamarlo così, non so neanche se è la definizione corretta. Ci dica, abbiamo 1 minuto e mezzo prima della chiusura. Noi le aziende le contattiamo regolarmente per far presente appunto le possibilità legate alla nostra attività e i risultati che otteniamo, eccetera eccetera. Io devo dire che il nostro cliente principale, se mi passi il termine, è proprio la persona, proprio il lavoratore. Cioè, io sono molto contento di aver sentito queste testimonianze di oggi. Penso che il nostro scopo sia quello di creare valore, no, all'interno del mercato. Riteniamo che un mercato che abbia all'interno, al proprio interno, le competenze per supportare le persone, quindi per affiancare le persone a ritrovare più facilmente un posto di lavoro e rimettersi in moto, sia una ricchezza per il mercato. Penso che per sviluppare questo mercato sia necessario, come si diceva prima, incentivare o addirittura obbligare in qualche modo le aziende che licenziano a farne uso, perché potrebbero non cogliere immediatamente l'opportunità altrimenti. E pensiamo anche che sia fondamentale che il pubblico si muova a supportare questo mercato del lavoro così in crisi, nel affiancare a persone disoccupate, magari senza sponsor, magari senza aziende che appunto disponibili a finanziare una consulenza di carriera, un processo di outplacement, possa intervenire a supporto. Già quindi, molte province, molte regioni lo stanno facendo. Benissimo. La riforma Fornero sta auspica il fatto che ci sia un tavolo a livello nazionale. Devo chiudere.